Radio 24 Reportage. Gusti e sapori. Il Made in Italy prende il mondo per la gola. Di Andrea Ferro. Il Made in Italy è un'espressione e una tradizione dai sapori forti da gustare in ogni senso. La nostra industria agroalimentare è infatti un segno distintivo, una filiera chiave per l'intera economia. Genera un valore aggiunto di quasi 59 miliardi. Nel club esclusivo delle 4A delle nostre eccellenze produttive, cioè abbigliamento, arredo, automazione e punto agroalimentare, si tratta del valore più alto. E quel che distingue ancora di più l'industria agroalimentare è stata la sua capacità di tenere la barra dritta, resistendo ai colpi della crisi che altrove invece ha picchiato duro lasciando il segno. Nel periodo 2001-2016 la produzione di food and beverage è cresciuta del 5,6% a fronte di un calo complessivo della produzione industriale del 20%. Il settore cioè è stato resiliente alla crisi. Qualità e quantità, insomma, mai come in questo caso i numeri rappresentano sostanza e simbolo della forza e delle opportunità che il settore alimenta a beneficio dell'intero sistema paese e indicano anche quanto impegnativo è e sarà mantenere questa tendenza salda senza strappare il filo. Per questo oggi, focalizzando l'attenzione sull'industria agroalimentare, proviamo a valutarne gli scenari prossimi anche alla luce delle turbulenze geopolitiche, dalla ventata di protezionismo agitata dall'America di Trump alle sanzioni alla Russia, passando per la Brexit. Occasione di analisi e confronto è stato Cibus Connect, una vetrina mondiale del Made in Italy a tavola, andata in scena alla Fiera di Parma. 400 espositori, 1000 buyers stranieri, spazi dedicati allo show cooking con chef stellati. A scattare un'istantanea del settore, tratteggiando nei profili, è stato uno studio di European House Ambrosetti, l'ha curato Valerio De Molli. La fotografia che The European House Ambrosetti dà in questo lavoro che abbiamo fatto insieme a Cibus e Federalimentare è una fotografia che dimensiona il primo settore industriale italiano. Più di 130 miliardi di fatturato aggregato, 58 miliardi aggregati di valore aggiunto, includendo anche la catena agri-food, quindi non solo food. Per dare un'idea, è il doppio degli altri settori molto più conclamati e noti, dall'abbigliamento, dall'arredamento e tanti altri. Quindi stiamo parlando di un settore di dimensioni estremamente rilevanti, forse troppo sottostimato dalla politica in termini di azioni di supporto e di sostegno. Guardando il futuro sono ancora più ottimista, sia perché la survey che The European House Ambrosetti ha fatto tra oltre 200 retailer internazionali ci dice che loro sono ancora più orientati ad acquistare Made in Italy. Più della metà di loro, peraltro, e questo è un pezzo del problema, compra per più della metà dai loro prodotti del portafoglio alimentari prodotti che sono Italian sounding, cioè che suonano di italiano ma non sono italiani. Questa è una piaga enorme sulla quale la politica soprattutto deve fare un'azione a tenaglia molto dura, molto, molto feroce, per far rispettare le posizioni di tutela della produzione manufatturiera italiana. Come abbiamo sentito, è un pezzo d'Italia che viaggia nel mondo, potremmo dire che prende il mondo per la gola, un simbolo che continua a vantare un numero di imitatori sterminato, che giocando sulla suggestione di un messaggio, se non spesso sulla truffa vera e propria, seguono l'onda di un marchio elevato a garanzia di una tipicità inconfondibile. Secondo Federalimentare, a breve il business parallelo sfiorerà i 100 miliardi, cioè tre volte tanto il valore dell'export, che nel 2016 ha valicato quota 30 miliardi. Per la metà i nostri prodotti finiscono su quattro mercati, nell'ordine Germania, Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Ancora qualche numero: in Italia il processo di lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari occupa 465.000 addetti, cioè è l'equivalente di quasi un quinto dell'occupazione complessiva dell'industria manufatturiera. In tutto le imprese del settore sono 6.850, una dimensione di fatturati, di lavoro, di creatività destinata ad allargarsi, ma sostiene Luigi Scordamaglia, presidente di Federalimentare, il processo di crescita non può che passare dall'integrazione della filiera. Integrare la filiera è una necessità. Per anni ci si è divertiti, non certo noi, a mettere in evidenza magari i contrasti, i conflitti tra le varie fasi della filiera, tra la produzione agricola e l'industria soprattutto. Io rimango convinto che senza integrazione di filiera non andiamo da nessuna parte. L'industria italiana è quello che è perché è la migliore al mondo nella capacità di trasformare, ma anche una parte agricola, una materia prima agricola che è la migliore al mondo nell'essere trasformata. Questo non vuol dire che siamo, saremo mai autosufficienti, quindi non bisogna demonizzare le importazioni. Quindi in Italia innanzitutto e anche all'estero un'industria sempre più integrata per scegliere una materia prima controllata e di qualità sin dall'inizio. Un'altra chiave di volta anche in questo settore è l'innovazione. Molti credono che in quanto settore tradizionale l'innovazione non ci sia, esattamente il contrario. Bisogna accelerare sempre più le innovazioni di processo, perché senza innovazioni di processo e automazione tu non sei competitivo, soprattutto con un costo del lavoro alto come quello nostro. Bisogna aumentare l'innovazione di prodotto senza snaturarlo. Non bisogna sostituire il parmigiano reggiano con un pessimo formaggio fatto con polvere di latte o con siero di latte perché è il bollino verde. Semmai, come stiamo facendo, si ridurrà leggermente il sale nei prosciutti o piuttosto che nel parmigiano reggiano. Quindi innovazione di prodotto, riformulazione parziale dei prodotti senza snaturarli come invece qualcuno vorrebbe, qualcuno che in realtà è più interessato a massificare i consumi. Il presidente di Federalimentare ha citato il parmigiano reggiano, un'icona tanto dell'originalità di un gusto e di una lavorazione quanto delle sofisticazioni internazionali. Vale quindi come esempio di un'eccellenza da salvaguardare. Nel 2016 sono state prodotte 3.469.000 forme di parmigiano reggiano, cioè il 5,1% in più rispetto al 2015. Eppure il prezzo al chilo, oggi sui 10 euro, è aumentato del 12%. L'export costituisce il 37% del fatturato del settore, con una quota raddoppiata negli ultimi 10 anni. Nel derby tra le province di Parma e Reggio Emilia, su chi ne produce di più nel 2016 ha prevalso, seppur di poco, la prima. Seguono ben distanziate Modena, Mantova e Bologna. Nicola Bertinelli è il neo presidente del consorzio del Parmigiano Reggiano. Il consorzio del Parmigiano Reggiano deve ritornare a fare una comunicazione che sottolinei la distintività del parmigiano reggiano rispetto a tutti gli altri formaggi. Chi compra un pezzo di parmigiano reggiano in un contesto di mercato internazionale, cosa significa? Che io ho delle alternative sullo scaffale. Chi compra un pezzo di parmigiano reggiano deve fare un'esperienza straordinaria, non solo da un punto di vista organolettico, ma un'esperienza straordinaria è anche compro un mito, compro un sogno, compro un qualcosa legato al territorio, compro un qualcosa che viene fatto seguendo determinate procedure che rispettano l'ambiente, quindi ecosostenibilità, benessere animale. Tutto questo che normalmente chi fa parmigiano reggiano fa deve essere trasferito con una comunicazione. Ma anche in Italia, perché gli under 30 non hanno ben chiara la distintività, l'origine, la value proposition del parmigiano reggiano, quindi anche in Italia lo dobbiamo fare. L'altro passaggio fondamentale è una lotta serrata alla contraffazione, nel senso che il nostro mandato vedrà un impegno per arrivare ogni momento in cui si apre uno stabilimento industriale di grattugio o di confezionamento, deve esserci una certificazione tramite un ispettore che quello che viene utilizzato è il vero parmigiano reggiano. In questo scenario si innestano le incertezze determinate dai fattori internazionali e dicevamo il primo pensiero corre all'America di Trump, che ne è stata una tendenza protezionistica. Al momento lo spauracchio non pare agitare più di tanto gli operatori del settore. Abbiamo tastato il polso di due realtà, un imprenditore e un consorzio di imprese radicate nel proprio territorio. Iniziamo con Attilio Zanetti, vicepresidente dell'omonima storica azienda di formaggi che ha sede in provincia di Bergamo. Le minacce di Trump si limitano per il momento all'invettiva, per cui finché le cose rimangono a livello di minacce non ci spaventano più di tanto. Chiaro, non condizionano neppure in qualche modo? No, al momento non condizionano il nostro lavoro, non c'è stata nessuna richiesta di accelerazione delle spedizioni nel timore di dazi doganali aumentati al 100%. Sarebbe per il settore nostro un grave danno, poi se ne sono toccati i formaggi, chiaramente sarebbe un danno per il sistema economico di tutta l'Europa. Sentiamo invece quali sono state per il settore in generale le conseguenze delle sanzioni alla Russia e quali le aspettative di fronte alla Brexit incombente. La Russia ha inciso molto per il sistema lattiero-caseario dell'intera Europa. Per il sistema lattiero-caseario italiano ha inciso relativamente poco. Esportavamo produzione di alto valore, ma in quantità non ancora importanti, mentre ha inciso moltissimo per paesi come l'Olanda, che era il più grosso esportatore verso la Russia, anche se in percentuale ha inciso molto di più per la Lituania, anche con un quantitativo inferiore, però vendeva quasi il 40% della sua produzione lattiero-casearia verso la Russia. La Brexit per il momento non vedo grandi problemi nell'interscambio di prodotti tra il Regno Unito e l'Unione Europea e viceversa. Però bisognerà poi valutare per il settore lattiero caseario l'impatto che sarà una certa riapertura che potranno avere potenzialmente il Regno Unito verso grandi mercati produttori lattiero caseari come la Nuova Zelanda e l'Australia. E ora in Piemonte, per capire come un'unione di piccoli e medi produttori agroalimentari del territorio guarda i grandi scenari internazionali. Ilio Piana della Confapi Cuneo. È una situazione molto particolare, di incertezza sicuramente, ma di aziende medio-piccole che in alcune aree hanno sempre avuto difficoltà anche di logistica per riuscire a uscire fuori dal territorio. Questo probabilmente ha favorito queste aziende e ha sviluppato un modo di operare un po' diverso rispetto a tutto il resto d'Italia. Vedere piano piano cosa sta succedendo e cercare di trovare dei correttivi per riuscire a superare questo momento. Ma sarebbe impensabile fermarsi e aspettare che gli eventi, bisogna cercare di andare avanti, andare oltre gli eventi e cercare di trovare dei correttivi per riuscire a stare sul mercato. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.